Ey yo, ey yo, ey yo. Al mic, Sebowana. C'è Cry, l'Afghan, il bunker. C'è altra gente, lo si sente. Scusate il ritardo. Ey yo, Sebowana al ce lo fa. Check one, so, one, so. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Vivo stati d'incoscienza sin dalla prima adolescenza, quando Comanani andava a pesca in barca, pensa. I pesci superavano in gran lunga la mia altezza, di quell'estate intensa, ma carezza l'ebbrezza di una Sicilia grezza, con sfondo l'Etna, facendo esperienze in campagna come Tarzan. Prima seghe, prima sigaretta. Te ne racconto un'altra, uso anni 90, gli anni dei piragna, di qualche morte in piazza. Una sera dopo l'altra finiva a farsa, a prevalere l'ignoranza. Storia di fissa, stissa, la realtà confronta adesso diversa. In fretta, per strada in bicicletta, evitavo gente brutta. Così cambio kumaka, ti giro con i bruculani. Non ti racconto la fine di gatti e cani. Le giornate al fiume, giocare a guardie e ladri, vestiti militari, a Chiana l'Arca cominciano i minchiati. Da Zarosa a Rubari, Piscacciuni a Murdica, di Panica Maghira, pescare i picciotti bravi, in mano bottiglioni, tutti pari pronti a scappare. I vespri siciliani, le perquisizioni, e ti cagavi nelle mani, col fumo nei coglioni. Mille situazioni alle superiori, un flash, le autogestioni, mettendo fiori nei cannoni. Stavamo fuori alla torretta, bombe d'erba, le pare per la gente che ti osserva. In Vespa, senza scienza, in Vespa, gli eterni freestyle all'orecchio di Ficicchia. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Te ne do io una in più. Trama crew, Danello facendo su tequila boom, giusto per capire con spacchio sogno io, col gusto del fare come quando ero giù. Di sabato panico, come se fosse stato lecito ballare sul tetto di un'auto, femmin per qui in mani in alto. E che diavolo, ma quale dialogo, sbirri in merda, io non collaboro. Ora Capodanno 2000, io e Pippo e Riga a Roma, avevamo roba buona. Dopo sogno Bologna, mollo mare e montagna, ci spiazza la nebbia in Emilia Romagna. Quanta strada in punto bianca ci accompagna, la stagione calda, incoscienza santa. E per il resto di com'è andata, puoi chiederlo a chi mi conosce a Ferrara. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Stati di alterata coscienza, sono stati alternati di sana incoscienza. E dai, metti da parte sta falsa innocenza. Raccontamene tu, una in più, una in più, una in più. Che cazzo c'è da raccontare? Tanto le tue storie me le sai solo inventare. Non c'è stile, io non ho uguale. Sul beat sono un animale, vale a dire il cane, anche il porco, il porco, il cane. Fanculo, sto immortale, ma vale che un giorno morirò. E io quello che do è prettamente hip hop. Oh, oh, gioco la carta d'Augusta e Sebowana te la imbusta. Mister Crip subito ne fa un'altra più farcita. La piccia, Last One, la firma con lo scratch, e Piger monta tutto con il rack. Si passa giù dall'Afghan, bunker studio in azione, MC zero coglione, solo la meglio selezione. Desolandia ora si presenta, il mondo pronto ad ascoltare. Hey man, un'altra, una in più, una in più. Io te ne chiedo ancora, una in più, una in più. Mi si risponde ancora, tu che hai la faccia più scaltra, l'incoscienza è sana, il timbro è Desolandia. Hey man, una in più, una in più. Io te ne chiedo ancora, una in più, una in più. Te ne chiedo ancora una. 9, sano incosciente mixtape, sano incoscienza Desolandia all'Express. Bunker studio sta qua, Bunker man con me, le Desolandia Queen, Less Dance Crew, Glow City Dealer, Pigeon e gli asini volanti al mix, l'inconfondibile Trick Henry Pirates Production, Perfect Unknown, dalle strade di Deso Alien Andrea, Oski Sound dal Cairo, aspettatene un'altra man.